Pronto su 10? Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno? Cristian, ma tu sì? Sì, ti sento tutto in mezzo al QRM, non capisco cosa dici. Ma in AM sì? Ma va bene. Sembra FM, E gli altri dove sì? Non ho capito dove sì, Ma non si è capito bene perché c'è QRM la propagazione. Adesso ho capito, come mi avvicino che mi senti meglio, ma c'è un po' di QRM di propagazione, capito Cristian? Non ti sento chiaro. Ma dov'è la plataforma? Attenzione 10, Claudio Sparviero. Quindi dopo che magari sento meglio, io sono all'ascolto. Attenzione 10, Claudio ci sei? Attenzione 10, ecco, avanti chi è? Sento canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Siete dal pelo. C'era un break sul canale, chi è l'amico che breccava? Buonasera. Niente, messaggio negativo, non ti ho copiato, chi sei? Ma ci hai messo la lingua, no? Provincia di Pisa. Di che è, ho capito male. Di Ragusa. 110 canale 10, c'è qualcuno? Sì, mi ripete il nome, comunque io sono Roberto, il mio QTH è Sassari, nord della Sardegna, e avanti a te l'amico di Siracusa, non ho capito il tuo nome nativo. Ciao Roberto, qua Concetto, Charlie Oscar November, Charlie Eco, Tango Oscar. Sì, allora avevo copiato bene, dai, Concetto, ciao, ben sentito, per la prima ti ascolto molto bene, 9 più 10 qua, il segnale dalle mie parti, veramente molto chiara e comprensibile la modulazione. Ok, ti rilancio il mic e mi dirai con che apparato stai utilizzando, che antenna e se sei in stazione fissa o mobile. No, qua stazione fissa con un piccolo apparatino, tutto omologato, 5 watt, anzi mi sembra... Caparocero, dai! Buonasera Roberto, con la speranza che arrivi nelle tue coordinate, Mirko in Florida da parte mia, provincia di Siracusa. Sì Mirko, tu arrivi ancora più forte dell'amico Concetto, tu sei arrivato a 9 più 15, molto potente la modulazione, probabilmente un apparato un pochettino più performante, ti ascolto molto molto bene. Ok, mi darei anche un rapporto a me di segnale e naturalmente di radio, prima di tutto. Ok, avanti di nuovo qua Roberto, ciao Mirko e ti rilancio il mic. Ok, ti ringrazio per il rapporto, vediamo di nuovo a Mirko se c'è ancora, se mi ascolta, di nuovo Mirko a te il mic. Sì Roberto, io ti ascolto al limite, ho un QRM di 7, capito, però riesco a tirarti fuori, magari se mi dici quanto arrivo nelle tue coordinate. No, il segnale tuo è perfetto, 9 più 10, la modulazione è chiara, molto potente, quasi una telefonata, dai, ti ascolto molto molto bene. Ok, vediamo se mi hai copiato, ti rilancio il mic, di nuovo Mirko, che poi farà girare per l'altro amico Concetto, di nuovo a te Mirko. Sì, Roberto, ti ho copiato adesso, in questo posto ci sei arrivato benissimo, 7, vai 5, avanti Concetto. Così, forse c'è un'altra bustata, vediamo Roberto, vediamo forse c'è un'altra bustata, avanti chi vuole entrare, mi sento 351. Positivo, adesso 4. Piero. L'amico purtroppo l'ascolto in mezzo al QRM, molto molto disturbato, tra l'altro qua è sempre molto alto, non ha le mie coordinate. Comunque gli altri, sia Mirko che Franco, e che è il concetto che ascolto benissimo. 9 più 20 ha toccato per un attimo Mirko, vediamo se c'è ancora. Mirko, di nuovo a te il mic, che farei girare per concetto. Non mi dire che stai. Vai, viene Roberto, io ti ascolto, a volte ti ascolto bene, a volte ti ascolto basso, in questo passaggio sei arrivato bassino, eh? Sì, assolutamente, 9 più 15 ti ho ascoltato. Comunque io, siccome vado a staccare, questo è il canale monitor di Sassari, il canale 10, se dovesse coincidere un altro momento, sarà un piacere di ascoltare sia a te Mirko che a Concetto. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguo di serata, buon tutto, una buona giornata per domani. 7:30 entrambi, ciao ciao! Sassari, senti Brindisi, pronto? Con la speranza che non ne ciao Roberto, ciao ragazzi, c'è anche un amico di Brindisi che chiamava, vediamo se mi ascolta, avanti Brindisi. Buonasera, sono per un controllo radio qua, porto di Brindisi, Fabio che sono da tutta la nuova, cambio. Fabio, segnale da paura, 9 più 15, radio IDEM, molto molto corposa, potente, veramente chiara e forte. Ok, io sono Roberto, la mia città è Sassari, ci sono gli amici di Siracusa, ci sono Mirko e Concetto, io te li rilancio, eventualmente continuate voi, io mi devo spostare. Saluto di nuovo a tutti, anche gli eventuali amici con l'ascolto. 7:30 a tutti, ciao ciao. Ciao Roberto, ti saluto, io purtroppo devo lasciare qua, salutone cordiale a tutta la ruota, Fabio ti saluto. Vabbè, però ieri c'è il FK, dobbiamo un lancio. La motivazione è lancia. Ma non lo so, ma io sto scendo alto, tu quando stai scendo? Scusa, io e quindi, vedi, già è meglio tu stacchi in più. E comunque la propaganda è in base alle zone, dal punto di vista positivo, non è tanto in realtà. Attenzione Genova, attenzione Genova, se ascolti il sud dalla grande isola che fa chiamata a cambio. C'è anche l'amico Concetto qua che rilancio subito per lui, vediamo se lo ascolti, avanti Concetto per Luciano, in Genova. Cambiano Concetto con questo. Me le do sì, guarda dal pomeriggio dopo mani, scusa, 44. Ma no, se c'è. Cazzo, vediamo se vuoi altro, non ti sei. Io non capito niente, guarda. Mirko. Brecco, brecco. C'è lo squelch preamplificato. Brecco, brecco 10, brecco. Italia. Ragazzi, ho qui Concetto. Buonasera, buonasera Concetto, qui è Gianni, operatore Charlie Bravo dalla città di Sassari in Nord Sardegna. Niente, un controllino dalle tue coordinate, grazie. Io se mi comprendo che c'è Graziano in Luti, dai, faccio. Vabbè, ma io sicuramente a Graziano non ci arrivo, non mi ascolta. Graziano, buonasera, non vuoi sentire. Operatore Gianni dalla città di Sassari, vi ascolto benissimo con un po' di QSB, comunque il segnale di 7-9 oscillante, qui Gianni operatore Charlie Bravo dalla città di Sassari, Nord Sardegna, avanti. Concetto di Siracusa, mi copi, cambio. Chiama Concetto. Sì, qui Gianni dalla città di Sassari, Nord Sardegna, ti ho breccato poco fa, volevo un controllo se è possibile, avanti. Grazie mille Concetto, qui Sassari, operatore Gianni, Sassari Nord Sardegna, per te Santiago 9 e Radio 5 con un po' di QSB, avanti. Ah no, comunque ora è stato solo modulato, non si dico, scusate Salutoni, dai qua Valentino, GT Turbo, città di Siracusa, avanti per l'amico del Nord Italia. Qua Gianni il profeta dalla Sassari Nord Sardegna, Valentino ti copio benissimo, avanti. Vabbè, ma sicuramente sei tu che mi stai facendo da ponte qua, dai Concetto. Ora aspetta, mica in Vicenza, ti ascolti qui Concetto in Siracusa, è positivo, non ho capito te anche per me in Vicenza, Valentino. Aspetta c'è Adam ragazzi, un attimo, vale. Ma vedi se Vicenza, vale, ti ho mandato il video. Vicenza, aspetta Vicenza se ascolti. Chiamo, allora succede. Vicenza, sono io che esco di sporto, poi mi dici che sto male, sei tu che tu esci da te. Ah vabbè dai, comunque quello buonasera Vicenza Ah, qui Valentino, GT Turbo Potenza, qui da Siracusa, avanti. Ma l'amico è Vicenza o Piacenza? Perché io qua non sto capendo più niente, ragazzi. Chi è l'amico, di dove muova? Piacenza, Piacenza, no, che te lo conferma. Piacenza male. Ora, vediamo un po'. Vediamo un po' di dare qua, di spremere l'ultimo. L'ultimo. Vediamo. Di spremere un po' l'antenna. Intanto saluto ad Adam, salutoni, diciamo che con la propagazione si bastano, eh. Vedete, vedo un po' se magari si muovere qualcosina e magari c'è una leggera situazione, c'è probabilmente sopra la rilevano ancora di più. Perfetto, allora va bene così, ho messo la rilevata al minimo, non ho più fatto niente. Piacenza, mi dici quando ti arrivo io, Mirko, buonasera. Non do scarpa. Vediamo se ascolta Adam, l'amico in Piacenza, magari nel prossimo passaggio mi dirà il QR0, perché non ho capito. Adam, mi chiama Piacenza. Sono di radio, non di volete no. E comunque Gigi Latrone, dai, ci siamo ascoltati spesso sul canale 45, passato, non so se ti ricordi, Valentino, GT Turbo, ben riascoltato Gigi, tu lo sai, ogni volta il problema, diciamo, ripetere il tuo RZ, mi viene da dire sempre Gigi Latrottola. Facciamo un controllino, vorrei capire un attimo come ti arriva da quelle parti. Ah, positivo, dai, dovrebbe essere un po' meglio adesso, Gigi. Sì, confermo. Bell'apparato, Pluto. Sì, confermo, infatti, sì, è un bell'apparato, Pluto, va bene, qua per la propagazione, ottimo. Avanti, concetto per te, K. Positivo, dai. Sì, rompo anche un po' di accordature. Io ero disaccordato, capito? Bravo, sì, siamo quattro qua che ci difendiamo bene. Comunque, ma poco fa ha fatto il passaggio anche Adam, ma forse non l'hai ascoltato, vediamo Peppino. Adam, fai il passaggio qua per Peppino. Compressa. Adam, esci tutto compresso. Adam, ma sei con la verticale o con la destra? Che vedi, vai, migliora. Avanti, vale. Prego. Comunque, non lo sento compresso, Adam. Più che altro c'è un problemino di segnale, perché arriva un bassino qua, 4-5, praticamente Adam arriva più forte al nord che qua a 6 km praticamente. E va bene, dai, tutto Roger, ma poi non mi è... Com'è finita qua, Mirko? Dimmi che dovevate vederti con Adam. Sì, ci siamo visti, poi domani sera viene, dai, passati qua. Prego. Ah, positivo. Va bene, dai, allora penso che questo weekend Adam si farà ascoltare. Risolverà questo problema di segnale, ma arriverà sicuramente molto meglio, dai. Tutto Roger, avanti, concetto. Prego, prego. Un attimo, prego, prego. Ti facciamo entrare senza problemi, ti abbiamo lasciato fino che si muore a quell'antipino. Attenzione, canale 10, Brecco. Peppino, Mirko, sono. Volevo chiederti, ma tu in che coordinate sei? Perché non è stato inquadrato ancora, dove sei tu? Ah, Piacenza, ho capito, Peppino. Come mi ascolti a me di modulazione, va bene, no? Santiago 9, radio Super 5, qui. Avanti, Valentino. Attacco lo sto guardando sotto, Valentino. Ora attende, Peppino. Peppino così, Peppino. Hola, Brecco Brecco, Sardegna chiama. Valentino. Vabbè, comunque vai bene, vai bene, tranquillo. Concetto, che c'è, Mirko, dimmi. Ma non gruppo se ci può mandare, non mi dici. Ah, mica, ma come mandarsi? Io prima dissi mica, chi c'è dopo? Ti sto dicendo, mica. Poi dopo si scommigliava la situazione. Non funziona, è andato con bello. Che ti ho fatto? Ah, è in gallo, Mirko. Va bene, dai, Gigi la Troia. Ma non può dare un controllino adesso, com'è adesso in base alla propaganda? Attento Gigi. No, è più 20. Si fa quello che si può, dai Gigi, grazie di tutto. Che dobbiamo fare? Mirko, non lo so, se puoi salire da sopra la situazione è migliore, Mirko. Valerino, sì, sei 9, io sì, sogno fermo a sì, tu sì, due scaricamande, c'è un po' di due tanto. Vabbè, che sopra tu senti caldo, capito? Ma io vado bene così, che fa? Non mi sente l'amico Gigi, mi senti, vero? Prego. Ma non ho capito, quando ti arrivo Gigi io, 9. Capo, no, Adam è ancora indietro, Adam è ancora in condizione un pochettino. Adam, ci sei ancora, vero? Vai, è compresso. Sì, vabbè, è un po' compresso. Bisognerebbe un po' abbassare i watt in ingresso. O se no Adam, vedi un po' se gli puoi creare un partitore, qualcosa. Anche perché tu lo sai, il MOSFET, cioè voglio dire, lavora in tensione, non lo so. Fagli, magari mettigli in parallelo verso massa qualche resistenza in modo da abbassare la tensione al gate, sicuramente tutto andrà meglio, Adam. Prego. Adam, hai ascoltato? Sì, comunque anche l'amico diceva che sei molto compresso. È positivo, positivo. Concetto, come siamo combinati, Concetto. Mica tu, questi tipoli, trovo così a posto. Attenzione, Brecco. Avanti il break. Attenzione, se ascolti l'amico Carlo che parla mobile, direzione Alghero, strada Gentiera, cambio. Ho sentito che ha modulato, però non ti ha tirato fuori. Vediamo se Valentino ti ha tirato fuori. Vai, Vale. Oh, figlio, saluto l'amico del break. Ho sentito che è buonasera, però non ho capito il suo nome. Dai, questa è la città di Siracusa, Valentino, stazione GT Turbo, in compagnia di Gigi La Troia in Piacenza, Mirko, Mamma Liturchi, Concetto 007, Adam, tutti qua in provincia di Siracusa. Avanti il break. Roger, copiato Nord Italia, avanti, buonasera. 9 più 60, mi sto preoccupando. Saluroni, ben ascoltato. Segnale 7 più o meno, 6-7 oscillante, radio 5 da parte mia. Non ho copiato il tuo nome, con le scuse. Aspetta, non hai ascoltato ancora il concetto. Ciao Matteo, grazie di tutto. Vai, concetto. Come a mangiare il fenomeno? Adam, sono a mangiare, ce ne vuole. Matteo! Attenzione, se ascolti qua l'operatore Carlo, parla molto. Matteo, ascolti Mirko, Matteo. Oh, sto mangiando, io sono in ascolto, ragazzi, io rimango in ascolto. Per te, concetto. È positivo, dai. Qua abbiamo i colossi, vai Valentino. Ma qua, comunque ho visto che è passato un po' concetto. Comunque buona cena qua Mirko, avanti, si ascolti qua l'amico Adam, lui qua in provincia di Siracusa, città di Solerino. Avanti Adam per Matteo. Matteo qui non risponde, è modulato Adam. Attenzione Adam, se ascolti. Valentino non è ascoltato. Positivo, c'è un problema di modulazione, Adam. La modulazione è bassa. Copiato Adam, segnale 5 radio 0. Positivo, positivo. Vai concetto. forza. Comunque mi ha salutato Peppino. Peppino, se ci sei ancora, 7351, ci salutiamo tutti qua con la Sicilia, Peppino. Ciao ciao Peppino, a ruota ti salutiamo tutti, da dove devi andare via. Vai Valentino. Ciao Peppino, è un piacere, buona cena, buon tutto, ci aspettiamo alle prossime, avanti Adam. Saluta anche Adam, Peppino, avanti per Matteo in Milano. Non so, magari è una questione di microfono, esce un po' bassino di radio, Vediamo, ora lui sicuramente si sistemerà a breve. Tutto Roger, avanti concetto che qua tu ascolti tutti. Ora ho capito se Matteo stava staccando o meno. Matteo, dacci conferma. Ok Matteo, se sei sicuro se ci riascolta. Ciao, ciao Matteo. Ok, comunque c'è un altro break, avanti l'altro break nella città di Siracusa. Vale. Luca, se andiamo con noi più 20 QRM. Addirittura. Qualche luce. Di Lette di Lorenzo. Sì, sì. Allora, io sento uno, sono frequente. Non sento nulla. Vediamo un po', avanti, avanti chi vuole entrare qui da Siracusa, avanti. Sì, centro nord Italia, ti ascoltiamo, avanti, con la buonasera, qui Valentino, GT Turbo in Siracusa, in compagnia di Concetta, ma tutti e tre qua in provincia di Siracusa. Avanti, centro nord Italia, chi sei? Lo so, ma prima ascoltavi l'amico segnale 9 radio 5, io qua non lo ascoltavo, effettivamente la propagazione è in base a dove gira, questa è un'ulteriore conferma che dove ti trovi è una bella zona per quanto riguarda i DX. Ascoltato perfettamente, avanti qua segnale 6 radio 4 da parte mia. Buonasera, chi sei? Eventualmente mi correggete se ho sbagliato, ho copiato questo. Salutoni, con dei dai, ben ascoltato. Avanti per Adam, per riprendere la Adam. È entrato Franco in Vicenza. Ora vai benissimo. Franco, hai copiato Adam in Siracusa? Sì, grazie Franco. Infatti, ti posso subito concetto. Avanti. Ciao Franco, 751. Valentino. Positivo, sì, anche la sono del Q51 da parte mia, ho copiato campo basso. Tutto Roger, avanti per te, vediamo un po' se riesci ad ascoltarmi, chi è in Siracusa, vai. Positivo, ti ringrazio, ho copiato qua una ora di 5, dalla Toscana, vediamo un po', ora faccio rilancio per Adam e poi gestisce lui un attimino, vediamo praticamente se avrà ascoltato Stefano in Toscana, avanti Adam. Roger positivo, vediamo un po', ma c'era un amico prima in barra pesante, zona centro nord Italia, vediamo un po' se c'è ancora. No, l'avevo rilanciato però l'amico in barra pesante, centro nord Italia, però non lo ascolto più. Ti confermo, comunque veramente ora vai bene Adam. Prima era appunto un problema di microfono, la modulazione è splendida, non, nessun problema adesso. Tutto Roger, vai concetto. Franco, mi senti compresso per caso Franco? Non lo so, qua comunque sta facendo segnale 9, prima era un po' più altino. Positivo, allora probabilmente qua l'apparato comunque scaldando all'inizio comunque più sensibile quando l'accendo quando è freddo e poi si stabilizza e tutto va a regime, dai. E va bene, dai, tutto Roger, l'Italia, ora però mannaggia dobbiamo andare a diventare noi. Avanti prezzo, dai, io non ho copiato se riesco a farmi ascoltare. Attenzione 10 10 10, c'è nessuno a canale 10 10 più 1 11. Claudio, c'è nessuno 10 per una prova? Adam, qua sempre in precisione di Siracusa, poi abbiamo qua sono amico quello dell'Italia e Bergamo, ha detto la stazione mi fa un segnale di 3-4. Attenzione canale 10 per una prova radio, 1, 2, 3, prova 10, niente, vabbè. 10, canale 10. Prova 10, c'è nessuno? Nessuno? Siete Turbo e Siracusa, senti tele, coordinate Brindisi, cambio. Attento, siete Turbo, senti tele, capo. Siete Michele Margherita, ti collego. Beh, in Sicilia ti ascoltiamo tranquillamente, un punto di riferimento per l'ascolto. Fattone, cagato, per e qui è rispondendo, attenzione fattone, se senti. Canale 10, 1, 2, 3, prova 10, non c'è nessuno, 10, 13. In qua la stazione Mamma di Turchi, cambio, hai staccato Monza? Un saluto qui Valentino GP Turbo in Siracusa. Hola, piacere qua di averti ascoltato. Ti lancio subito per Adam in provincia di Siracusa, anche lui, dai Adam. È positivo. Attenzione canale 10. Monza. E purtroppo facciamo reputare. Attenzione canale 10. Ti lancio per Concetto. Fatto bianco. Attenzione canale 10. Attenzione 10. Sono veloce, sono Mirko, sono, mi senti? Sì, avanti Mirko. Scappa Mirko, sono in Floridia, provincia di Siracusa. Magari mi dici come ti arrivo io. Allora, Radio 5, Santiago 9, qua Sassari, centro città. Avanti, vabbè. Sì, positivo, ok Robin, dai, è stato un piacere, ti auguro una buona serata e ci ascoltiamo alle prossime, va bene? Sempre propagazione permettendo. Va bene, dai, allora, Concetto in bianco, chi è rimasto dal Nord Italia? Mirko, ti saluto a Squalo, senti? Sì, insomma, sta parlando qualcun altro. Volevo chiedere ad Adam che hai fatto adesso, arrivi 9.10, Radio Super 5 l'aveva fatto, facciano mai che basta, e poi hai il lineare, non sei più compresso. Sì Mirko, c'ho sempre il lineare, però ho cambiato microfono, penso che si era scaricata la batteria nell'altro, per questo mi fregava col microfono. Ma vai benissimo, non ha toccato niente, qui sì è una telefonata, la radio è stereofonica, forte, io lo sento bene, molto meglio di prima, giusto Ale? Confermo, infatti gliel'ho detto anch'io, arriva perfettamente adesso. Sento, ma hai camperato, non serve, le vacille. Sì, Mirko, questa è parola normale. Sicuramente la batteria mi ha fregato, perché ho visto che salendo l'amplificazione è normale. Evidentemente comunque vai meglio con il microfono normale, quando c'è la radio è abbastanza. Che si dico qual è? Qual è la radio? Ah, per buono, dai, vai bene. Perché? E ma se segnalo tu che dici? La cucina se niente se scusciva attacca. C'è una righetta che ti saluta. Attenzione attenzione 10 per una prova. C'è qualcuno? Cambio, cambio. CQ10, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. CQ10, cambio, cambio, CQ10, cambio, cambio. C'è qualcuno? Cambio. CQ10, cambio, cambio, c'è qualcuno? Cambio, cambio, CQ10, cambio, cambio. Canale 10, non c'è nessuno. Canale 10, 1, 2, 3, prova 10. Avanti, avanti, chi è che bussa? Ciao Fabrizio, per un controllo, stavo cercando Claudio ma non c'è. Ciao Fabrizio, buonasera, Gianni da questa parte, dimmi tutto. Ciao Gianni, no, stavo provando un microfono e volevo vedere se stavo uscendo bene, che lo stavo riparando. Va benissimo, cos'è, un mic normale? No, un MC60 sul Kenwood. Va bene, da queste parti... Fabri, va bene, non so che radio stia usando, con o senza processore, comunque ti copio bene, dai. È un 440, magari non c'è, se mi avvicino magari è regolato per il mio microfono, ma stavo riparando questo microfono che aveva problemi. Ciao Fabrizio, ciao Gianni, Fabri va benissimo. Ciao Lucarie, ti ho visto l'altro giorno. Sì, raga, ti ho visto anche io, dai, con la moto bella. Una delle mie moto vecchie. Che cazzo la targa? Non si può fare niente per la targa. Perché per la targa? Sì, con la moto nuova, nuova, questa targa, sai, modello vecchio. Ci mancherebbe altro caso che mi cambio la targa, ragazzi. Il valore della moto è riuscire a conservare in una moto storica la targa vecchia. Cacchio, sto battagliando per un mulino in 125 che mi vogliono dare la targa nuova per riuscire a mantenere la targa vecchia e perde valore. No, no, non cambiare la targa. Non si può rinnovare, cioè, non so, si può fare qualcosa. Sì, volendo si può smontare e rifare, si può rifare. Quello intendevo dire, non so che la targa dà valore alla macchina, alla moto. Sì, comunque sta arrivando bene, Fabio, va benissimo. No, è che tendenzialmente se le targhe sono ben leggibili non si toccano di quelle moto. Non è altissimo il Mickey Game, ma va bene così, se no poi se metti il mio lo devo regolare nuovamente, che non è mio, che stavo riparando questo microfono che aveva un problemino, un po' più di un problema. Sì, Fabri va alla grande. Stavo cercando Claudio ma non l'ho trovato, ho chiamato, poi non ho telefono per chiamarlo perché me l'ho dimenticato in garage e poi tanto devo lavorare, ci passo e lo recupero. Claudio l'ho visto stamattina, però l'ho fischiato, ma adesso non mi ha visto lui a me. Lì in via Carlo Felice stava salendo. Sì, lo so, era da Roberto credo. Ciao Luca, buonasera, ben entrato. Sì, ciao già. Però mi fuori a prendere un po' di fresco, se mi sono orientato a casa. E via, casino. Sto caldo, appiccicoso. Luia, ma carità. Sì, fa bene, tutto bene comunque, dai. Modulazione e suono perfetti. Meglio così, bloccando sembra che non si stia bloccando, allora sta andando, poi almeno sto leggendo un forum veloce, sempre su quella moto. Hai visto invece l'ultima che ho fatto, il CBX 550? No, l'ho messa su Facebook. Ancora non lo mai, dovevo fare il film e le cose, magari ti mando qualche foto, anche quella è stata smontata e rifatta tutta. Sono cose belle, facciamo un sacco la moto vecchia, no, questa è nuova per carità. E poi sono un'altra musica. Sì, io lo so Fabi, e poi il ciao. C'è sempre il ciao, sì. Sì, ciao, un paio di settimane, il 24 ho fatto poi il collaudo. E adesso aspetto i documenti. Oggi ho fatto il collaudo del Vespone Pix che avevo, e l'altro giorno ho fatto il collaudo del Molini 125. Dopo 3 o 4 da rimettere in strada. Sì, cazzo. No, guarda, il mio sogno è se riuscissi a prendermi lo special. Questa è la special, 4 marce. Quella ce l'ho. Ne ho 2. So che costa troppo, cazzo. Costa troppo. Beh, compro una moto così nuova, cioè nuova, messa bene. Quello è il mio sogno, ma chissà, adesso vabbè, ho avuto una spesa. Ma più in là si vedrà cosa fare. La L è quella col faro tondo e poi c'ho la special bianca, sempre come quella che hai visto, fatta sempre uscendo dalla fabbrica, però quella la special come c'avevo da ragazzino, con il pezzi 100, campana, carburatore, marmita, albero, mattucchiel, tutto quanto, bello preparato, gira veramente bene quel motore. Ti credo Fabio, ti credo che gira bene. Quella moto se la prepari bene viaggia, no? Altro che non c'è scooterone, secondo come la fai lo scooterone se lo mangia. Diciamo già va bene, quella che ho fatto io va bene, infatti no, è lì. Adesso quest'anno ancora non è uscita, bisogna che adesso con la storia di queste moto che ho terminato, che stavo provando, e anche adesso in questi giorni mattia giù la moto grossa e tiri fuori un po' di vespe. Ne ho 4, 5, 6 che non sono riuscito a far uscire ancora. Sono belle, perciò quando le vedo sono, guarda, troppo belle. Ce ne sono in giro nuove, pare sembrano uscendo dal negozio, ma belle. Poi c'è qualcuna che non è, insomma, messa bene, non è tenuta a conto, questa gente non gliene frega. Capita che le vedo ogni tanto, tipo quando vado giù alla Marina di Sorso, qualcuno l'ho vista, un ragazzo. Poi la produttore si è pieno di quelle moto, di quelle special, quelle col faro quadrato. La special, sì. Adesso non c'è il telefono, se ti avrei mandato la foto della mia. Quella è bella, sì, la specie, la mia è proprio bianco spino, proprio il suo colore originale, poi quella era conservata, non hai fatto niente, praticamente era perfetta questa moto, anche quando l'ho comprata. Vabbè, sono andato giù, proprio imbarcato per portarle qui perché erano tutte e due conservate. Sì. Ehi, ce l'hai bianca? Sì, bianca l'ho fatta. Bella, bianca non ce n'è il rosso, il bianco è il migliore. In assoluto. Avanti Gianni, anche tu hai avuto un motore vecchio, no? Ehi, ormai fanno parte del passato, la gioventù di tutto. Sì, ci sono passato anch'io a Fabrin, quindi so cosa vuol dire, dai. E niente, però adesso ci sono altre priorità e quindi ci basiamo sui ricordi adesso, dai, abbiamo già dato. Vabbè, io le colleziono, quindi ne ho un po' di queste moto degli anni 70, 80, 60, 50. Siamo attaccati al telefono. Vabbè dai, io mi sfido, mi finisco di leggere queste 3-4 pagine che sto cercando una cosa e poi mi ritiro, che devo vedere una cosa e poi devo uscire. Vabbè dai, grazie delle due chiacchiere e del controllo, dai. Poi avremo modo di sentirci. Ehi, ciao Fabri, dai, alla prossima. Avanti già. Ehi, dai. Buona continuazione di serata, ci sentiamo prossimamente, ok? Vediamo un po' se c'è Antonio Bombolino, tu ci sei? Non c'è mai nessuno questo baracchino, vabbè, con questo caldo mica se ne stanno a casa. Oh yeah, ma cari dai, so che scende di capo, oh yeah, sta provando il mio sistema nervoso, yes. No, oggi, stasera ho rimesso la boomerang, non ci ho bucato l'avveno, così la torniamo, la ritorniamo al legittimo proprietario. Perché non va? Boh, Luca, è una stessa cosa, tra questa e quella non ci sono differenze. Cazzo, cioè, alla fine fate le varie, non paragoni, fate i vari confronti, no? Non c'è nessuna differenza, mi? Ah, sì, ma la vera non c'è una 5 ottavi, però. No, quella che ho piazzato io Mezz'onda, vabbè, 50 cm di differenza, Giomi. La, quella che ho montato io è la 530 e la 580 è 580. Quindi 50 cm di differenza. Però già con questa praticamente non ho, come si dice, non c'è stato nessun apprezzamento in più, dai. Chi mi ascoltava con, con quella là mi ascoltava con questa senza nessuna differenza, capito? Quindi mi tengo questa e mi risparmio i miei soldi. Beh, certo. L'ho rimessa su, gli ho dato una pulita. Vabbè, controllate il PL, tutto a posto, il cavo, tutto mette in sidocca. E niente, adesso rimane così. Casino, queste cazzo di antenne. No, vabbè, guarda, posso ringraziare Fabrizio che mi ha sistemato una matto qua. Se no, quello costa da comprarla nuova. Ma avrei preso la, la Gimaster? Troia. No, vabbè, Luca, cioè, per come sono messo io, cosa mi vogliono? Cioè, questo mi ha fatto la cortesia Marco. Marco l'ha comprata perché per i suoi usi futuri da altre parti. L'ha data a me a, a testarla, ma insomma. Ti dico proprio che non, praticamente non c'è nessuna differenza. Anzi, ti posso dire una cosa, guarda, ho piazzato la, la Venom dai 26 ai 28 MHz, uno di stazionarie. Oggi come ho rimesso la boomerang, praticamente sono andato su, sulla tripla 5 e c'avevo le stazionarie a 1.3 e quasi 1.4, cosa che non mi faceva l'altra. Certo, io c'avevo la, la boomerang come l'ho chiamato Antonio. Praticamente andava bene, ma si è interrato, adesso c'è la Savini. Ah, ho capito. No, mi immaginavo qualcosina di più, ma vuol dire, cazzo, che ci ho messo di tubo 5 metri così, ma poi alla fin fine non ci ha manuto a me. Già ascoltavo bene prima e ascolto bene anche adesso, per cui lascio quello che c'è, trovate, mi risparmio i soldi, magari piuttosto che comprare una, buttarci i soldi in un'antenna così, cazzo, mi compro un po' di metri di cavo e magari mi metto il cavo, un cavo appena appena migliore, dai. Io poi chiamano bene quelle antenne già, già. Poi già c'è anche la posizione, sei un ben alto, tu a voglia, e viene per i buchi. Lui, guarda, lui, è tutta invece in occhi. Gloria. Va bene così, dai, tanto non ho tante pretese, l'importante è che poi alla fine ci si ascolti, dai, cioè che ci sia, che sia buono la radio, che il suono del microfono sia perfetto e poi non se ne affutti nulla. Infatti, adesso vediamo un po', forse vedo chiamare mia cugina che ha la TV che non si vede. Mettere a posto l'antenna? Aspetta già. E così siamo, non è caldo in casa, ce n'è caldo. Guarda, adesso non sta tirando filo d'aria, c'ho le finestre aperte. Oh yeah, già sono stato 2-3 giorni con la schiena bloccata, cazzo, bacari dai. E un po' c'è caldo, un po' c'è corrente, alza, chiudi, apri, cazzo. Adesso un po' mi è passato, dai. Però l'altro giorno, cioè, sono rimasto 2-3 giorni con la schiena bloccata. Ma senza usare né ventilatore né coso, mi. Su di cazzo, poi di colpo salsa, salsa la, come si dice, la corrente di botto, cazzo di TV Mileggia. Già, queste cose fanno male, mi. A proposito di condizioni di ventilatore, c'ho quello col telecomando. Via, già, mi senti. Io a 5 pale a 3 velocità. No, allora 1, 2 e 3. E te. Ah, che goduria. Lo so, io lo dimmo, guarda, preferisco. Preferisco non attaccarlo. Tra l'altro sono rimasto bloccato. Mi si è bloccata la schiena, quindi, ma ci devo dimigliare l'antidolorifico, padrone mio, per carità. succede, purtroppo non ce l'abbiamo più 20 anni. Stiamo facendo un'altra cosa di fare. Sì, e beh già, mamma come sta? Non ho capito, Lu. Ho detto mamma come sta? Bisogna stare appresso, dai. E niente, insomma. Siamo qua e boh. Sì, pure io, ti credo, sono nella stessa barca. C'è più buccata, chissà. La porto io all'ospedale, poi le visite, quello, quell'altro, prendi quella, mamma mia. Però adesso di nuovo gli mettono l'assistenza per fargli la doccia, c'è un casino già. Purtroppo chi ci rimane in casa, tu vabbè bene o male, hai tua sorella che ti aiuta, no? Vabbè, mia sorella lavora, ogni tanto passa, dà qualche colpo di mano così, ma poi non si trattiene. È tosta. È un casino, è cugino. Ma cazzo, cugino. Sto rispondendo a mia cugina. È un casino, Poi portare mia madre all'ospedale è un lavoro, poi è una donna pesante. Meno male, vabbè, un po' mi aiuto con la sedia a rotelle. Quando vado all'ospedale mi chiedo sempre la sedia a rotelle, perché altrimenti è un casino. A piedi si ferma ogni 3x2. Me lo posso immaginare. È inutile, cioè, siamo più o meno sulla stessa barca noi, cioè, anche Marco lo stesso è, anche lui è indaffarato. Siamo condannati. Poi sai cosa? Il problema è che non ce l'hai più, poi ti manca. Lo so. È un travaglio davvero. Mamma mia, oi. Non si è raggiunto nessuno oggi. Proprio tutti a casa serena. Ahahah. Ahahah. Ahahah. Luciano, ci sentiamo spesso con Luciano. Ha detto, mi ha dato dell'antenna a Luciano. Ce l'ha mandato la 5 lui, mi svoltata. L'ha mandato la 2, forse non mi ricordo. Mi ha detto che non c'era l'alimentatore. E te l'ha preso, ragazzi, 20 euro di lupo pareggi, di quelli cinesi, a voglia, 50 ampere, 20 ampere, vanno bene. E se vuole mettere un'antenna nel balcone? Ah no, via. Cazzo, a Luciano. Ma è ancora aperto la trattoria? Dove cazzo è? Via università? Sì, ce l'ha sempre, però vabbè, solo per appuntamento e basta. Ah, ho capito. Mangio da nonna, una cosa del genere, mi pare signora così. Mangio da nonna? Il nome del posto, tipo mangio da nonna o una cosa simile, boh. Boh, non lo so come si chiama. Comunque è sempre lì, sì, dove hai detto che è l'università. Oh, che università, boh. Anda Max, Luia. Dai Lu, vado a... Mi bevo una birretta fresca, così almeno cerco di consolarmi un attimino, dai. Ci sentiamo Lu, dai. Magari ci becchiamo un altro momento, ci facciamo un'altra chiacchierata, ok? Vai tranquillo, tu mi stai aspettando, volevo fare questa... devo aiutare questa mia parente, dai, che non c'ha televisore in camera. Va bene già, alla prossima, dai, grazie delle due chiacchiere. Dai. Buona serata e buon proseguimento. Alla prossima, ciao. Ciao.